fidarmi, ascoltarmi. Ora non ascolto più nessuno. No, no, ora vado per la mia. Ora vado per la mia. Non ascolto più nessuno. Vado per la mia. E non torno indietro. Vado per la mia. Non mi fido più di nessuno. Vado per la mia. Per la mia. Quanto tempo io mi irrito quando sento la cazzate su di me. Dal momento che io qua non mento, dentro ho sempre freddo. Anche d'estate, anche se ci state, anche se restate. Di persona sto zitto nei pezzi, dico cose che ci restate. Non finisco sulle testate, ma ho un disco che dalle testate. Non immaginate con che ragazzo parlate. State bene, di che cazzo parlate? Flow, pazzo, ballate, andate. Io mi chiudo in me a tre mandate. Al mio cuore gli ho dato tre saldate. Ora non mi squaglio manco con tre scaldate. Ho prime ispirate, inganno signorine disperate. Ho letto le cose più disparate, le assimilo. Dico cose che dopo come minimo mi sparate. Ho rime mai scontate, mai ascoltate, ma mi ascoltate. Sto così una merda che dopo che suono mi spalate. Ci metto tutta la mia vita, ora che non mi sembra di farlo da tutta la mia vita, anche se qualche produttore poi sfrutta la mia vita, anche se mi frutta la mia vita. Io resto quello di sempre, io non ascolto da sempre. Vado per la mia, non ascolto più nessuno. Vado per la mia. E non torno indietro. Vado per la mia. Non mi fido più di nessuno. E vado per la mia. Per la mia. Tu per la tua, io per la mia, ognuno per la sua. Di strada si divide qua il percorso. Mi trovi diverso dall'anno scorso. Nel mio trascorso il rimorso si sente altato. Intenti ad occhi aperti, più lenti però a contatto. Col pubblico da subito, anche se a volte dubito. Siamo tutti appesi a un filo, ma c'è chi perde il contatto. Un altro tattoo sulla pelle, un'altra bella tra le belle. Un'altra stella cometa invasa dalle celle. Da noi si eccelle. Sai che diamo sempre il massimo e ci troveresti sempre qui. Anche se andassimo un palo di frassino nel cuore dei vampiri. A tutti quelli che ti fottono non appena ti giri. Vale la pena che giri il mio disco nello stereo. E se insisto è perché è vero, è previsto su nel cielo. Davvero, dall'anno zero fino al 2000 e oggi. Resto in giro mentre giro sui giri degli orologi. Non ascolto più nessuno. Vado per la mia. E non torno indietro. Vado per la mia. Non mi fido più di nessuno. E vado per la mia. Per la mia. Io vado per la strada mia, tu continua a scoprire la tua. Questa è la strada che ci hanno assegnato, ognuno continui a seguire la sua. Io vado avanti senza più riflettere, senza pensare le frasi da mettere. A che sogno mettere, senza più smettere. Vogliamo scommettere. È la mia storia ancora, tu non la sai. È la tua vita che non cambia se tu non lo farai. Per primo, il mio destino è questo. E non c'è più niente che possa fermarmi. È una ruota che gira anche senza una lira, ma mira ad andare più avanti. C'è chi pensa che questa è una vita calma e straordinaria, ma c'ha ragione. Gesto, mica campo d'aria. Io ce la metto tutta, ma mica cambia l'aria. È una vita che provo, ma l'unica via è quella mercenaria. Devo correre avanti ed innovarmi mentre la gente ripassa. Chi non sta al passo coi tempi, col tempo passa. Sai chi ci crede, sorpassa e continua e basta. Tu non mi fare domande, non mi intralciare. La mia strada è questa. Non ascolto più nessuno. Vado per la mia. E non torno indietro. Vado per la mia. Non mi fido più di nessuno. E vado per la mia. Per la mia. Vado per la mia. Non ascolto più nessuno. E vado per la mia. E non torno indietro. Vado per la mia. Vado per la mia. Vado per la mia. Vado per la mia. Vado per la mia. Vado per la mia. Vado per la mia. Yeah, yeah. Pensavate che questo era tutto? Questo era tutto? No, no. I ragazzi ancora tanto da dire. Mister Gesto. Mister Gesto. Mister Gesto. Yeah, yeah. C'è ancora tanta musica per voi. Musica per voi. E il nuovo lavoro. E il nuovo lavoro. Il nuovo album uscirà nel 2010. 2010. Quindi rimanete sintonizzati. Sintonizzati. Tutti i nostri canali. Yeah, Gesto. Gesto. Yeah. Nuovo album coming soon. 2010, baby.